mangiamo accompagnati dal silenzio. Sopra ci hanno detto è guerra generale, meglio sottoterra è molto più normale. Ci stiamo tutti abituando agli occhi scuri, al freddo caldo freddo delle luci viola. Ormai questa città non la possiamo più guardare, ci vogliono le gallerie per potersela immaginare. Hai una bocca da metro, chiedi a tutti come sto. Se ci fosse un bacio vero che mi porti non lo so. Hai una bocca da metro, chiedi a tutti come sto. Se ci fosse un bacio vero che mi porti non lo so. Metro. Qualcuno ha già provato a salire all'aria pura, nessuno è più tornato indietro a raccontare. Sopra ci hanno detto state sottoterra, molto più normale, di sopra a sopra c'è la guerra. Tutta la notte siamo come dei fantasmi, la radio dice musica ragazzi, e noi giochiamo coi flipper, beviamo due bicchieri. Ormai chi se ne frega, avere dei pensieri. Hai una bocca da metro, chiedi a tutti come sto. Se ci fosse un bacio vero, che mi porti non lo so. Hai una bocca da metro, chiedi a tutti come sto. Se ci fosse un bacio vero, che mi porti non lo so. Metro. We'll be right back.